Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, la giornata poteva prendere, sembrava, per meglio dire, prendere un'altra piega. Questa mattina infatti in apertura molto bene Milano, ma soprattutto volava la borsa di Madrid dopo gli aiuti da 100 miliardi di euro alle banche spagnole, quasi più 6% a Madrid, e il rendimento dei titoli spagnoli a due anni era sceso sotto il 4% per la prima volta dal 15 maggio, quindi alla Spagna costava un po' di meno indebitarsi. Tra l'altro lo spread spagnolo era sceso, quindi la differenza tra quanto costa la Spagna indebitarsi e quanto non costa invece la Germania era sceso sotto i 460 punti. E poi verso metà giornata purtroppo le cose sono cambiate. Anche il nostro spread era sceso sotto i 430, poi c'è tornato intorno a mezzogiorno. Anche Madrid ha annullato praticamente tutti i rialzi, il nostro spread è arrivato a 450 punti, la Spagna è tornata a 490, un BTP italiano è tornato a rendere il 5,85% e lo spread spagnolo è tornato anche sopra i 500 punti. Questo non è un bel segnale, perché evidentemente dopo a 504 punti e il nostro spread a 440. Ormai a un certo momento, in alcuni istanti, il divario tra i nostri BTP decennali e quelli tedeschi ha sfiorato i 470 punti. Perché questo? Ne parleremo nel corso dei mercati finanziari, perché dopo un iniziale così entusiasmo e ottimismo l'allegria è finita subito. In questo momento Piazza Affari è una delle peggiori, meno 2%, Parigi invece perde solo guadagna lo 0,20, Francoforte guadagna lo 0,60, Londra lo 0,15, l'America è leggermente negativa di uno 0,20%. Perché questo? Perché il ragionamento è: bene, dopo la Spagna forse toccherà l'Italia a chiedere aiuti. Male infatti oggi soprattutto le banche. Unicredit meno 6,5, Mediobanca meno 5, Monte dei Paschi meno 4,80. Cioè, ormai Monte dei Paschi, cito un titolo su tutti, vale 20 centesimi di euro per azione. Intesa San Paolo ha perso il 4,60, la Popolare di Milano pure, il Banco Popolare il 4%, l'Emilia Romagna il 4%, UbiBanca il 3,80%. Insomma, un'altra giornata da dimenticare in borsa, soprattutto per i bancari. Si salvano Pirelli più 1%, Luxottica più 0,80% e Ferragamo mezzo punto percentuale di rialzo, Eni più 0,30%. Parleremo, visto che citavo Eni, di energia, perché la buona notizia di oggi è che il ministro Corrado Clini, che dovrebbe essere nostro ospite più avanti, ministro dell'Ambiente, ha annunciato di aver presentato al Consiglio dei Ministri un decreto che sostanzialmente punta a generare in tre anni, due anni e mezzo, 60.000 nuovi posti di lavoro, come dando dei vantaggi fiscali, un credito d'imposta alle imprese che operano in alcuni settori dell'economia verde, quindi fotovoltaico, ma anche la parte che riguarda l'analisi sismologica del paese. Dicevo, in tutte le imprese che lavorano in questi settori potranno godere, se passerà così in CDM, di un credito d'imposta per i neoassunti aggiuntivi. Non che se ne va uno tu lo rimpiazzi hai il credito d'imposta, ma se assumi una persona in più realmente rispetto all'organico varrà fino al 40%. Ne parleremo appunto con il ministro Clini più avanti. Stimano in 60.000 i posti di lavoro che si potrebbero creare in due anni e mezzo. Chiaro è però che la notizia del giorno riguarda ancora i mercati che non si accontentano dei 100 miliardi che la Spagna, dopo aver detto di no due o tre volte, ha dovuto accettare dall'Europa, e ragionano su quale potrebbe essere il prossimo big fish, il prossimo pesce grosso, che chiaramente si chiama Italia, nel giorno in cui l'Istat, nella seconda lettura del PIL, ci dice: attenzione, l'Italia è entrata in una recessione che non si vedeva dal 2009, cioè il calo del PIL nei primi tre mesi, PIL italiano, nei primi tre mesi del 2012, meno 0,8% rispetto agli ultimi tre mesi del 2011, Ebbene, dicevo, il calo del PIL è un calo così forte che non si vedeva dal 2009, l'anno in cui tutto il mondo frenò come conseguenza del crack finanziario di fine 2008. Meno 0,8%, meno 1,4% rispetto ai primi tre mesi di un anno fa. E questo obiettivamente la dice lunga su un'economia italiana che rischia in questo modo di frenare di quasi il 2% quest'anno. Ne parleremo anche, parleremo anche di questo in apertura. Non mi resta che dare il numero per i vostri sms: 349-238-6666. Rapidamente le altre notizie in breve. Oro risale a 1608 dollari, il petrolio apre in rialzo a 85 dollari, parleremo anche di petrolio e benzina con il ministro Clini. Dicevo, le borse le abbiamo ampiamente raccontate, dalla Spagna però, anzi sulla Spagna, arriva una dichiarazione oggi anche del portavoce del commissario europeo agli affari economico monetari, Olli Rehn, che ha detto: la disponibilità dell'area dell'Eurogruppo fino a 100 miliardi per le banche spagnole consente un margine di manovra sufficiente alla Spagna e di rispondere anche agli scenari peggiori. E alcune fonti dell'Eurogruppo fanno sapere che l'accordo raggiunto con la Spagna porta benefici anche per l'Italia. E la cosa migliore però che l'Italia può fare per superare le tensioni è la risposta che viene da Roma e dal governo italiano, che ha chiaramente l'intenzione di costruire misure per rafforzare la fiducia, così sempre fonti europee, però c'è sempre qualcuno che su questo, no, un po' ci gode. Adesso io mi devo arrabbiare di nuovo. Perché? Perché l'economista della banca tedesca Commerzbank, banca che era a un passo dal fallimento, hai voglia di fare i primi della classe, a un passo dal fallimento a novembre, era la banca di cui tutti parlavano prima che Mario Draghi intervenisse con la prima tranche di 500 miliardi per le banche europee, per cui uno già che lavora in Commerzbank potrebbe anche ricordarsi dei casi suoi, potrebbe anche ricordarsi del fatto che il governo tedesco come garanzia ha dato 400 miliardi in questi anni alle banche tedesche, che le banche tedesche, quelle più piccole, le casse di risparmio più piccole, non è che siano messe così sempre bene. Eppure non basta, perché nonostante tu stia lavorando come economista di Commerzbank, invece che spiegarci perché Commerzbank va così male, fai un'intervista allo Spiegel online, l'economista si chiama Ralf Solven e il titolo è "L'economia italiana crolla in modo massiccio", e poi l'occhiello: "I partner europei hanno appena annunciato alla Spagna aiuti miliardari e ora viene messa a fuoco l'Italia", e l'analista di Commerzbank dice: "La richiesta di aiuti da parte di Roma è solo una questione di tempo, un gufo", e poi pensasse anche ai casi suoi. Veniamo invece ai casi nostri, perché oggi il ministro Fornero ha detto che sul disegno di legge sul lavoro la fiducia arriverà, verrà messa entro l'estate, ha negato che vi sia alcun dogmatismo né ideologia sull'articolo 18, però poi è arrivata la doccia fredda poco fa della relazione INPS, quella che il ministro ai nostri microfoni due venerdì fa da Trento, ricorderete, due giovedì fa in realtà, criticò anche l'essere stato intempestivo, un po' estemporaneo, le dichiarazioni dell'INPS. Chissà quanto sarà arrabbiata adesso, perché stando a fonti trapelate sulla relazione dell'INPS al Ministero del Lavoro, inviata prima della firma del decreto che aveva fissato a 65.000 il numero di esodati, cioè quelli che hanno accettato di uscire dal mondo del lavoro con scivoli, con agevolazioni, perché sapevano che andavano in pensione nell'arco di uno o due anni o tre anni. Adesso con la riforma dell'età delle pensioni si trovano con un buco, una terra di nessuno di uno o due anni, gli esodati appunto. Ebbene, la relazione che l'INPS aveva inviato al Ministero del Lavoro prima che il Ministero del Lavoro fissasse in 65.000 la quota di esodati da salvaguardare. Sapete cosa dice? Dice che i lavoratori esodati che potrebbero avere diritto ad andare in pensione sulla base delle vecchie regole sono 390.000. Questo nel giorno in cui si sa che la spesa pensionistica italiana, il dato però riferito al 2010, è stata più alta della media dei paesi OCSE, intorno al 15,3%, la media dei paesi è 9%, ma sempre l'OCSE ci dice che in Italia chi ha più di 65 anni 13 volte su 100 vive in situazioni di povertà, quindi ha un reddito inferiore al 50% del reddito medio nazionale. E poi se sei più di 75 anni addirittura sono 15 su 100. E diciamo, insomma, non è una bella notizia scoprire che gli esodati secondo l'INPS sarebbero 390.000. Rapidissimamente, allarme lanciato dall'amministratore delegato del Ferrovie dello Stato Mauro Moretti nel corso di un convegno. Ha detto nel 2013 se non ci saranno soldi a bilancio non potremo più garantire il servizio regionale. E ancora Pisapia, sindaco di Milano, che si è dimesso, lo ha annunciato oggi all'Assemblea Generale di Assolombarda, dall'incarico di commissario straordinario di Expo 2015 perché c'è un'attenzione insufficiente sull'Expo da parte del governo e del Parlamento. Beh, mi sembra che ce ne sia abbastanza per lanciare il numero per gli sms 349-238-6666. Leggiamo anche i vostri messaggi su Facebook, ci mancherebbe. E per partire con il primo tema, ossia la Germania, che dice ormai è una questione di tempo, l'Italia chiederà, farà come la Spagna. E lo Spiegel, sempre tenero con noi, che titola: l'economia italiana crolla in modo massiccio, e tutto perché oggi è arrivata la conferma, purtroppo, di un'economia che ha frenato bruscamente nei primi tre mesi del 2012. È calato soprattutto il settore delle costruzioni nei primi tre mesi del 2012, meno 3,2%, i servizi hanno fatto meno 0,6%, l'industria meno 1,6%, l'agricoltura, ma incide molto poco, incide per il 5% sul PIL, ha fatto più 4,9%. Mai così male da tre anni a questa parte. Calano gli investimenti, meno 7,6% annua, cioè la componente che ha avuto il peggior calo è quella degli investimenti, che poi sono fondamentali perché gli investimenti si sviluppano poi nel corso del tempo. E se anche chiudessimo i prossimi trimestri a zero, chiuderemo comunque l'anno con un meno 1,4%. Professor Giacomo Vacciago, che insegna politica economica all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Raccontato. Ecco, buonasera anche ai tedeschi. La sentiamo un po' male, professore, forse un po' disturbata la linea. Io sento benissimo. Ecco, ho capito, però anche noi. Però, detto questo, è vero, ha ragione un ascoltatore a far notare che sono crollate del 26% anche le partite IVA ad aprile rispetto a un anno prima. A me preoccupa molto il dato sugli investimenti, al di là del PIL complessivo, meno 7,6%, nello specifico meno 12,5% gli investimenti in mezzi di trasporto, meno 3,3% quelli per le costruzioni, meno 2% quelli per macchine, attrezzature e altri prodotti. Addirittura appunto mezzi di trasporto quelli più bassi. E il crollo degli acquisti di beni durevoli in un anno è pesante. I beni durevoli sono quelli che non si cambiano ciclicamente, meno le automobili, il frigorifero, la lavatrice e quant'altro, meno 12% nei primi tre mesi. Questo vuol dire che, vabbè, le banche non danno i soldi, Vacciago, spesso, ma forse gli imprenditori li hanno anche chiesti poco. Ma diciamo che negli ultimi tempi è crollata di nuovo la domanda. Il credit crunch, cioè i soldi negati a chi li voleva, era novembre-dicembre fortissimo, addirittura a dicembre, per piacere, restituire i soldi alla banca. Ma poi negli ultimi minuti è il crollo della domanda. Gli investimenti per il futuro non te lo puoi permettere quando il presente va così male, e quindi il futuro lo stiamo rinviando. Il che vuol dire che l'anno probabilmente sarà più facilmente -2 che -1,5, come ancora si pensava 3 mesi fa. E soprattutto il 2013 non inizia subito con una ripresa. La ripresa la devi volere e provocare. Se il governo continua a tagliare, perché anche noi dobbiamo fare bella figura e fare i primi della classe, chiaramente la ripresa tarderà. Ecco, su questo vorrei essere abbastanza chiaro. A me ha fatto arrabbiare il capo economista di Commerzbank che dice l'Italia è la prossima, e Spiegel che titola, dove cavolo adesso lo riprendo, l'economia italiana crolla in modo massiccio. Ma insomma, però, professor Vacciago, oggi sui mercati si vede bene, Milano perde adesso il 2,70% e sono andate in negativo anche Parigi e ci sta per andare Francoforte. Cioè, dopo un avvio inizialmente di euforia, il ragionamento è stato, vedi, adesso 100 miliardi li ha chiesti la Spagna, la prossima sarà l'Italia. È come dire che non gli basta mai a chi vuole... È come dire che da 3 anni non abbiamo ancora risolto un problema che fin da 3 anni fa... Ti ricordi che avevamo riscoperto la definizione di Jim O'Neill dei PIGS? Portogallo, Irlanda, Italia con 2 I, Grecia e Spagna... Beh, manca solo l'Italia in quei 5 nomi, perché Grecia, Portogallo, Irlanda e Spagna gli aiuti li hanno avuti. Quindi paradossalmente, ma mica tanto, e dovevamo saperlo, nel momento in cui si firmava a Madrid, i mercati ragionavano, beh, è rimasta solo l'Italia adesso. Sì, ma questo lo sappiamo da 3 anni. Nessuno è riuscito in 3 anni a interrompere quella collezione di iniziali che vedeva sempre la I dell'Irlanda accanto alla I dell'Italia. Allora, dunque, sì, alcuni dicono che si arriverà fino a un -3% quest'anno nel PIL, io mi auguro di no, però attenzione, il problema è: gli aiuti alla Spagna andavano dati 100 miliardi, i mercati adesso scommettono che la prossima sarà l'Italia. Io personalmente ritengo che insomma, la situazione delle banche italiane non fosse messa, soprattutto perché il mercato immobiliare italiano non ha avuto i problemi del mercato immobiliare spagnolo, non fosse messa così male come quella spagnola. Però è vero che se continuiamo a dover pagare i titoli di Stato dal 5% in su come tasso di interesse, è qua il calo rischia di essere più forte. Professor Vacciago, mi sembra però che lei, adesso lo riprendiamo dopo il metro, la pubblicità, che lei avesse detto non siamo riusciti a interrompere una spirale negativa perché non c'è stato il colpo di teatro, il colpo forte, quell'azione che interrompe la catena di continua speculazione sull'area euro. Vorrei capire se adesso è troppo tardi, se ormai non facciamo più in tempo, secondo lei, a fare questo. E soprattutto che cosa dovrebbe fare il governo Monti, perché quando lei dice sbaglia Monti a continuare a tagliare tasse in un paese che è già in ginocchio, aumentare le tasse e ridurre i finanziamenti in un paese che ha la domanda interna che si è fermata di nuovo, vorrei capire come si fa per rispettare però i vincoli un po' ragionieristici che ci ha dato l'Europa. Dopo il meteo, 349-238-6666 per i vostri sms, nel frattempo Milano ha chiuso veramente sui minimi, -2,80%, è la peggiore di gran lunga, perché Parigi fa -0,25%, Francoforte più 0,13%, Londra più 0,13%, l'America -0,35%. Professor Vacciago, 2 domande molto, molto rapide. Da un lato, che cosa intende dire quando dice che Monti deve fare qualcos'altro oltre a tassare e ridurre i costi, perché la domanda interna è di nuovo crollata nei primi 3 mesi? In secondo luogo, da questo punto di vista, perché secondo lei non siamo riusciti in questi 3 anni a interrompere una spirale, e paradossalmente adesso che 100 miliardi li abbiamo dati alla Spagna, tutti i mercati dicono bene, la prossima sarà l'Italia, non tanto perché ha una bolla immobiliare, le banche subiscono una bolla immobiliare, quanto perché le banche italiane sono piene di titoli di Stato italiani che chiaramente in questo momento soffrono. Prego. Allora, in ambedue i casi, Spagna e Italia, abbiamo poca crescita e molto debito. Da sempre sappiamo che il debito, quando è eccessivo, non rileva che sia privato o pubblico. 20 anni fa l'Italia fu cacciata dallo SME per troppo debito pubblico, una settimana dopo la sterlina fu cacciata dallo SME per troppo debito privato. Il troppo debito è troppo, puoi solo ridurlo e o tornare a crescere. Non l'ha fatto Zapatero, non lo sta facendo Rajoy. Speravo di più con Monti, mi ha deluso la tristezza con cui il paese ha rinunciato a crescere. Messi in sicurezza, grazie alle pensioni, il futuro del bilancio pubblico, abbiamo perso tempo. Io non so ma dove, professor Vacciano, stanno facendo i vari ministri. Ma dove, professor? Perché il paese ce l'ha ricordato per l'ennesima volta ieri l'altro Ignazio Visco: se non cresce è perché non funziona il settore pubblico, dalla giustizia in giù. Il che vuol dire che tutti i ministri hanno un solo compito, non il povero Corrado Passera, anche tutti gli altri devono far tornare a crescere il paese, aggredendo quella parte che non funziona, che dalla giustizia in giù usa ancora la carta e la biro e va in un ufficio a ritirare un pezzo di carta per attraversare la città e tu, cittadino, lo porti in un altro ufficio. Neanche in Africa succede ciò che vediamo tutti i giorni in Italia. Come fa a crescere un paese così? Con mezzo paese che lo frena, che frena l'altra metà. Beh, e qualcuno fa qualcosa. Sì, anche sulla anche sulla spending review, devo dire obiettivamente, speriamo molto in, ma in bondi. Speriamo molto, ma siamo già a giugno. Sì, siamo già, siamo già a 7 mesi, come Rajoy, e non ha più scuse. Allora, e su, l'ultima domanda, anche se mi fanno segnare di chiudere perché abbiamo i mercati, il resto però, professor Vacciago, a livello europeo cosa fare? Perché è chiaro che se in questo momento il ragionamento è bene, la Spagna ha ceduto, mo concentriamoci sull'Italia e vedremo, e vedrete che con gli spread in aumento e la borsa in calo cederà anche l'Italia. Attenzione, è uscita un'agenzia adesso, lo spread italiano è volato a 470 punti qualche minuto fa, e i bonus, invece lo spread sui titoli spagnoli è tornato a 516 punti, cioè nemmeno i 100 cioè miliardi. Nemmeno il salvataggio è bastato. Nemmeno il salvataggio è bastato. E allora ma che facciamo? È ovvio, perché il problema è quando e come torniamo a crescere. Oh, per l'Europa, lasciami dire solo una battuta. Vorrei che la smettessimo di dire che il problema sta a Berlino. Gli altri 16 esistono o non ci sono? Beh, sì, però lei sa. È facile dire che chi ha il 33% decide per tutti, ma l'altro 67 cosa fa? La Germania ha solo un terzo del PIL europeo. La dobbiamo smettere di dire che tutto è merito o colpa sua. No, guarda, io su questo la penso diversamente da lei, nel senso che è ovvio che la Germania non è da sola. Fino a poco tempo fa c'era anche l'Olanda, c'erano anche i paesi del nord che l'appoggiavano, così. Però non è inutile girarci attorno, il ruolo leader e guida ce l'ha in questo momento la Germania, e a mio avviso ha delle grossissime responsabilità per come non ha generato questa crisi. I debiti li abbiamo fatti noi, i conti li ha truccati la Spagna, la bolla immobiliare ce l'aveva la Spagna, la Germania non ha nessuna colpa su questo, ma nel non dare risposte per 2 anni ha, secondo me, creato praterie, professor Vacciago, per la speculazione. Cioè bastava tagliare la testa e dire si salverà qualunque paese, poi ci risolveremo noi i conti. Insomma, se no, è chiaro che da lì è arrivato l'elemento, a mio avviso, di debolezza. Detto ciò, come se ne esce a livello europeo? Se ne esce quando, per piacere, gli altri 16 fanno un documento comune. Io voglio ancora vederli. Io temo che scopriremo una cosa divertente quel giorno, che la maggioranza dei 17 sta con la Germania e non vede l'ora che noi usciamo. Questo sarà divertente, scoprire che l'Austria, l'Olanda, la Finlandia, ce l'hanno con noi, e la Merkel è il loro paravento. Questo è ciò che temo, non lo auspico ovviamente. Su questo invece sono d'accordo con lei, perché dietro la Germania ci sono dei piccoli paesi che appunto si fanno scudo della Germania, ma ripeto, l'Olanda è caso emblematico, era anche più dura dei tedeschi finché non ha avuto una crisi di governo dovuta alle misure di austerità. Però su questo, che non ci sia solo la Germania contro tutti, ma che sia probabilmente Spagna, Italia, Grecia, Irlanda, Portogallo da una parte e con la Francia un po' di qua, un po' di là, e il resto dei paesi più con la Germania, questo sicuramente può essere. Grazie all'economista Giacomo Vacciago, lanciamo intanto subito la borsa. Di cui stiamo parlando da circa 40 minuti, meno 2,80% nel finale Milano. Insomma, non è servito a nulla l'aiuto da 100 miliardi, o meglio, era servito questa mattina. Le borse andavano bene, benissimo Madrid, poi hanno azzerato i guadagni, gli spread sono ripartiti, appunto. Adesso stiamo ragionando su una differenza tra noi e la Germania di 470 punti e fra la Spagna e la Germania di 516 punti. Manco se ne sono accorti dei 100 miliardi dati alla Spagna ieri. Leonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E chiaramente le banche italiane, perché sono considerate quelle più a rischio, perché sono piene di obbligazioni in pancia, italiane, titoli di Stato italiani, hanno perso tantissimo. Il tonfo è pesantissimo per Unicredit, meno 8,81%, Intesa San Paolo meno 6% a un euro per azione. Il Banco Popolare meno 5,92 a 91 centesimi, Mediobanca meno 5,60, Monte dei Paschi meno 5,20, Popolare di Milano meno 4,80 come l'Emilia Romagna, Ubibanca meno 4,5 e poi tra i non bancari cito Telecom meno 4,5%. Lasciamo stare le banche, andiamo anche su Telecom, Eleonora, le banche le abbiamo già spiegate, Telecom. Sì, Telecom è andata giù per diversi motivi. In primis ci si interroga su quella che sarà diciamo il ruolo di Telefonica. Ricordiamo che è l'azionista di riferimento in Telco, la scatola che controlla il 22,5%, ma anche Telefonica ha i suoi bei problemi. Fitch proprio venerdì scorso ha rivisto al ribasso l'outlook, vale a dire le prospettive per la società, a negative, mettendo in conto proprio la debolezza del mercato delle TLC in Spagna, ma anche in Inghilterra, dove evidentemente l'azienda è presente, e quindi appunto su queste basi ci si interroga sul futuro assetto azionario di Telecom, che peraltro magari nei prossimi mesi, nei prossimi anni si troverà a confrontarsi anche con altri attori. Abbiamo visto Metroweb, con cui non è chiaro se ci sarà un'alleanza o piuttosto una concorrenza. Proprio quest'oggi inoltre sono arrivate altre notizie, in primis il fatto che il PM di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio anche per Telecom Italia, cioè per la società, per la legge 231, sempre in relazione ovviamente ai fatti del passato sulle SIM false, però ovviamente sono nuove grane che si trova ad affrontare l'azienda. Ancora questo per quello che riguarda Telecom, parleremo anche della Galassia Ligresti, però c'è qualche titolo che si è salvato, male oggi tutti gli industriali, i ciclici, quindi il settore industriale, perché insomma, il dato sul PIL preoccupa anche sui fatturati futuri di chi è più legato alla domanda interna italiana, e mi riferisco in questo caso anche a Fiat Auto meno 3,80%. Ragionamento in qualche modo analogo si è fatto anche su A2A meno 4,30%, Parmalat meno 4,30%, Finmeccanica meno 4%, Enel Green Power meno 4%, Mediaset meno 3%, Enel meno 2,80%, Generali meno 2,60%. Bene, Pirelli più 0,60, Luxottica più 0,40 e Ferragamo più 0,40. Il lusso comunque tiene. Il lusso tiene, l'abbiamo visto la scorsa settimana con i conti di Prada, che nel suo primo trimestre, che si è chiuso a fine aprile, ha fatto il botto, in questo caso in senso positivo, ha fatto il record di risultati sia di fatturato che di utile, quindi questo ha dato in là una serie di acquisti su tutto il comparto del lusso. Poi per quanto riguarda Luxottica, sebbene abbia frenato un po' sul finale, più 0,4, è stato uno dei migliori titoli per tutta la giornata. Venerdì scorso l'azienda ha messo nero su bianco di aver siglato il contratto decennale con Armani, e gli analisti già sono alle prese a fare i conti e reputano che è un contratto che porterà almeno 200 milioni di introiti nelle casse di Luxottica. E questi sono casi specifici, ripeto, perché si fosse messo adesso in ascolto, la notizia forte, quella che ha condizionato tutto il mercato, riguarda da un lato

misura anticiclica, ministro, perché se continuate a incassare di più con la benzina e col petrolio così alto, forse si poteva rinunciare a qualcosa nelle accise. Ma detto questo, lei a che punto è? Perché insomma, glielo direte ai petrolieri, dovete guadagnare di meno, è questo che volete dirgli? Allora, quello che noi stiamo dicendo è di utilizzare un algoritmo per la valutazione del costo al consumatore finale in Italia del carburante che sia sensibile rispetto alla caduta del prezzo del barile o alla variazione del prezzo del barile. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, in cui riprenderemo alcuni dei temi con cui abbiamo aperto. Per chi si fosse appena messo in collegamento, oggi la reazione dei mercati dopo gli aiuti che la Spagna ha ricevuto, 100 miliardi, è stata una reazione a due facce. Fino a metà mattinata molto positiva, bene Milano ma soprattutto bene Madrid, è arrivata a guadagnare il 6% la borsa iberica, poi inversione netta di tendenza, tant'è che Milano ha chiuso ed è la peggiore tra le principali borse con un meno 2,80%. Dicevo inversione di tendenza perché è difficile spiegarlo in maniera così razionale, cioè perché prima compri poi vendi, ma in sostanza potremmo usare l'esempio del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Prima si è visto mezzo pieno, poi si è visto mezzo vuoto, ossia se la Spagna ha chiesto questi aiuti, ammesso e non concesso che basteranno, alcuni infatti dicono no, la Spagna avrà bisogno di 300 miliardi, non 100 miliardi, il punto è il prossimo paese sarà l'Italia. E devo dire che si trovava questa analisi già a inizio pomeriggio sul sito del quotidiano Spiegel, si è beccato anche un gufo l'analista di Commerzbank, banca disastrata tedesca, però da giudizi, perché dice una richiesta di aiuti da parte dell'Italia potrebbe essere solo una questione di tempo. Il titolo del Spiegel era l'economia italiana crolla in modo massiccio e si riferiva all'altra grossa notizia del giorno, ossia il PIL nei primi tre mesi è calato come non faceva dal 2009. E quindi perché questo? Perché si sono fermati tutte le attività, soprattutto si sono fermati gli investimenti nei primi tre mesi dell'anno, il che vuol dire che il calo acquisito a questo punto per il 2012 è già dell'1,5%, vuol dire che se praticamente non dell'1,4 per la precisione, se anche noi non calassimo nei prossimi tre mesi e facessimo zero, finiremo l'anno con un meno 1,4%. Il problema è che a questo punto le stime portano un calo del PIL italiano al 2% per l'anno in corso. Dicevo, in questo calo del PIL si capisce molto bene che si è fermato il paese, cioè si è fermata la domanda interna, i consumi interni, perché i servizi hanno fatto meno 0,6, l'industria meno 1,6, le costruzioni meno 3,2, ma soprattutto gli investimenti hanno fatto meno 7,6% nei primi tre mesi rispetto ai primi tre mesi del 2011, con un calo pesantissimo negli investimenti in mezzi di trasporto, meno 12,5%, e quindi camion, ma automobili, e però male anche i macchinari, le attrezzature, meno 2%, le costruzioni, meno 3%, gli investimenti in costruzione, meno 3,3%. E questo vuol dire che non solo c'è stata una frenata, ma se mancano gli investimenti ti stai, tra virgolette, garantendo anche una frenata futura, perché se non investi è difficile crescere. Adesso Wall Street non ha coinciso, alcuni ce lo chiedono. Wall Street apre 15,30, perde in questo momento lo 0,24, ma la correzione si è avuta molto prima, cioè già a mezzogiorno avevano annullato i guadagni le borse spagnole, le borse e le borsa italiana. E poi concludo per dare il riassunto dell'apertura: il crollo vero e proprio degli acquisti di beni durevoli. Gli italiani tirano la cinghia e rinunciano come primo acquisto a quegli acquisti che paradossalmente non sono nemmeno cresciuti così tanto come prezzo, penso all'elettronica, agli elettrodomestici, ma che comportano un investimento spesso sostanzioso e soprattutto sono rinviabili, cioè tu la lavatrice la puoi comprare fra un anno, se la tua funziona la spesa la devi fare ogni giorno. Questi sono i beni durevoli che sono crollati del 12% rispetto a un anno prima, mi sembra che ce ne sia abbastanza per tenere assieme da un lato la crisi spagnola, ma dall'altro il fatto che l'Italia sia il prossimo obiettivo. Di questo hanno parlato anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera. Il Presidente della Repubblica ha detto attenzione sul disegno di legge sullo sviluppo, penso che si stia stringendo, occorre trovare meccanismi nell'Unione Europea che evitino nuove crisi, e poi ha fatto anche un riferimento agli accordi con la Spagna. Penso che possiamo salutare come positivo l'accordo che è stato appena raggiunto per quello che riguarda la crisi bancaria in Spagna e compiacerci dell'accoglienza positiva che proprio oggi i mercati finanziari hanno riservato alla notizia di questo accordo. Però il Presidente ha parlato in mattinata, come sentite da questa dichiarazione, poi dovrebbe adesso dare un altro commento, visto come si chiusa la giornata. Non è stata una felice accoglienza, è stata come fuoco fatuo all'inizio, poi in realtà meno 2,80% e Piazza Affari ripiomba 13.070 punti sull'indice. Il ministro Passera ha detto l'Italia ha fatto quello che era necessario per salvarsi, può diventare un propulsore della crescita europea se credibile. Abbiamo peraltro pronto un decreto con norme molto rilevanti per aiutare imprese e per quindi creare posti di lavoro. La crescita insieme alla disciplina di bilancio sono le due leve con cui l'Italia si è riconquistata e si deve riconquistare ulteriormente credibilità per giocare in Europa il ruolo di spingitore della crescita. Sì, noi ce lo auguriamo. Per ora il ruolo che l'Italia sta giocando in Europa è spingitore, diciamo, verso il baratro, per usare le parole del ministro, nel senso che qui se i mercati si ficcano in testa che il prossimo paese a chiedere aiuti sarà l'Italia, è chiaro che bastonano le banche italiane, perché le banche italiane hanno in pancia centinaia di miliardi di obbligazioni italiane. Lo spread italiano purtroppo oggi è tornato a livelli molto alti, 470 punti la differenza tra noi e la Germania, cioè tra quanto costa noi indebitarci, quanto dobbiamo offrire noi per indebitarci, per trovare finanziatori per il debito, e quanto devo offrire invece la Germania. E anche la Spagna ha superato i 500 punti, 516 punti per trovare finanziatori sul suo debito. L'impatto sui titoli bancari è stato devastante, meno 8,80% Unicredit, meno 5,90% Intesa San Paolo, meno 5,90% anche il Banco Popolare, meno 5,60% Mediobanca, meno 5,20 il Monte dei Paschi, meno 4,80 la Popolare di Milano e anche la Popolare Emilia Romagna, meno 4,5 UBI Banca. E allora parliamo di Spagna per parlare d'Italia, no? Come si dice in gergo, uno parla a nuora perché suocera intende, dovrebbe essere così il detto, e noi parliamo a nuora perché suocera intenda, cioè la suocera d'Italia. Ha ragione chi scrive 50 punti di spread in un giorno, è quasi, insomma, da 4,20, 4,28, 4,70 non è una bella notizia. Ringrazio allora per averci raggiunto il collegamento chi ha scritto un libro proprio sulla Spagna, coautore infatti di un libro che si chiamava L'economia spagnola da Franco a oggi, da Francisco Franco oggi, professor Stefano Manzocchi, che insegna economia internazionale all'Università Luis di Roma. Buonasera. Buonasera. Le chiedo un minuto di pazienza perché abbiamo il traffico, poi vorrei capire come tenere assieme il rischio Spagna con quello che mi sembra essere diventato il nuovo gioco dei mercati, no? Il rischio Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, aiuti alla Spagna che non bastano, i mercati che invece puntano adesso sull'Italia come anello debole della catena. Intanto dalla Spagna il premier Mariano Rajoy, che ha detto ha vinto la credibilità dell'euro dell'Unione Europea. Quello che è successo ieri era riferito in realtà la dichiarazione a sabato, è stata l'apertura di una linea di credito per il nostro sistema finanziario con l'obiettivo di recuperare la solvenza del sistema finanziario e avere il

reazione qui da noi è stata di un po' di sussiego, un po' di niego, ma la verità è che sembrerebbe che andiamo in quella direzione. Quindi purtroppo i conti delle banche italiane dipendono in larga parte dall'andamento dell'economia italiana, famiglie che non pagano i mutui, imprese che hanno fatica a rispettare i loro impegni, eccetera, eccetera. Allora, la domanda a questo punto però è questa: se i 100 miliardi della Spagna sono stiletti come bene, la Spagna ne avrà bisogno forse di 300, il fondo salva stati ISM, se non ricordo male, ne ha 500 di miliardi a disposizione, per cui non ci sono i soldi per salvare l'Italia. Iniziamo a prendere di mira l'Italia in questo modo, iniziamo ad abbattere il pesce grosso. Per parafrasare, anzi utilizzando proprio il titolo del nuovo spettacolo di Corrado Guzzanti, Molto rigore per nulla, che no, parafrasa Shakespeare sul molto rumore per nulla, non è che qua c'è molto rigore per nulla, cioè non è che col solo rigore, io lo chiedo a tutti i miei ospiti, professor Manzocchi, il dato sugli investimenti è un dato drammatico oggi, meno 7% gli investimenti, il che vuol dire che non si stanno nemmeno creando le condizioni perché nel secondo, terzo trimestre l'economia giri in positivo. Se tu non investi, è difficile che tu poi abbia un fatturato e un PIL in aumento. Non è che qui va rivista l'intera strategia, cioè questa è la terza estate che andiamo in vacanza non sapendo al ritorno ci sarà l'euro, non ci sarà l'euro. Se andiamo in Grecia manco sappiamo se dobbiamo pagare con l'euro o con le dracme a questo punto. Ma diciamo questo. Qui ci sono due cose, due robe, due mostri che si rincorrono, no? Uno, un mostro è lo sgonfiamento di questo eccesso di debiti che è stato fatto a livello mondiale, nei paesi anglosassoni nel settore privato, nei paesi diciamo latini nel settore pubblico, tranne la Spagna che l'ha fatto nelle banche. Poi ovviamente c'è la recessione e questi due aggeggi si mordono la coda, perché è vero che non basta il rigore, però è anche vero che se oggi noi pensassimo a fare nella situazione dell'euro che viviamo una bella spesa pubblica in deficit per 30 miliardi per rilanciare l'economia, immagino che lo spread arriverebbe a 1000 nel giro di una settimana. E questo significa costi per le banche, per le imprese, per lo Stato, eccetera. Allora, è certo che la soluzione non può che essere europea, questo è ovvio. Il problema è che come, nel senso che continua, diciamo, da una parte il balletto più responsabilità da parte dei paesi del Sud Europa che è chiesto dai tedeschi, più gestione comune dei bilanci pubblici che i tedeschi chiedono e i francesi non vogliono, il Sud Europa chiede invece appunto investimenti, eurobond a livello europeo, alla fine si fanno dei passettini per accontentare un po' tutti, pensando che abbiamo l'arma assoluta che è in qualche modo la Banca Centrale Europea, che in qualche modo potrebbe intervenire. Ma se la Banca Centrale Europea alla fine della fiera non può comunque comprarsi i debiti pubblici dei paesi che hanno un debito eccessivo, Italia, domani Spagna, quando i debiti delle banche diventeranno debiti pubblici, questo non funziona. Cioè, sotto ai problemi delle banche, cioè, secondo lei, per concludere, ecco, appunto, anche perché le banche nostre, lo spiego chi scrive al 349-238-6666, non hanno il problema delle banche spagnole che hanno fatto mutui e prestato soldi ai costruttori e il mercato immobiliare spagnolo è in bolla, però sono pieni di botte BTP italiane, certo. E quindi quando lo spread poi sale iniziano ad avere grossi problemi. Detto questo però, professore, in 30 secondi, la sua ricetta, quindi la sua soluzione sarebbe avere la BCE che garantisce per le banche europee dell'area euro e la chiudiamo qua. Per i paesi per forza per l'area euro o per gran parte dei paesi comunque del sud, sarebbe dire che una quota rilevante dei debiti esistenti diventano un debito europeo. Naturalmente a quel punto il debito europeo non sarebbe AAA, ma forse chi se ne importa, un debito europeo che in qualche modo è garantito dalla BCE, e poi naturalmente applicare però il pareggio di bilancio nei limiti del possibile. E quindi obbligare i paesi al rigore, il fiscal compact è stato fatto, ma dall'altro. Dall'altro però dire anche, attenzione, adesso il debito in carico alle banche viene garantito dalla Banca Centrale Europea. Su questo ecco perché dico, se non si convince la Germania, continuiamo a fare interviste, a ragionare, ma tanto sempre con lo spread a 4,70 siamo tornati e vedremo domani. Grazie all'economista che insieme appunto all'economia internazionale, alla LUIS di Roma, Stefano Manzocchi. C'è chi dice, Barisoni, è la terza estate che andiamo in vacanza e non sappiamo se la fabbrica sarà riaperta. Avete ragione, questo è il portato di tutto questo ragionamento. Intanto comunque buona serata in attesa di un'estate che non arriva e di una Germania che non si sblocca. Noi torniamo in diretta domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.